Il mito del re Italo, colui che ha dato il nome all'Italia. È bene ogni tanto ricordare da dove veniamo, chi siamo. Le nostre radici si può dire che affondano 5.000 anni fa, un tempo lontano ma ancora eco nel profondo. Vengono da una particolare storia, quella del re Italo, non solo mito, ma realmente esistito, anche se poi è stato infarcito di leggende, e ci ricorda che la culla della nostra nazione è la Calabria, terra che ha accolto la migrazione greca nell'età del bronzo e da cui è partito il nostro nome. Ma risaliamo alla storia. Tutto parte dall'età del ferro, 1200 a.C. È l'epoca in cui gli uomini scoprono la lavorazione del ferro e possono creare utensili e armi più efficaci. La leggenda pone in quest'epoca la guerra di Troia e l'esodo degli eroi sopravvissuti. Uno di questi è Odisseo, Ulisse, l'uomo astuto, instancabile viaggiatore, che approda in un'isola verde, bellissima, davanti alle coste del Lazio, l'isola di Eea. E qui incontra Circe, la maga, la regina dell'isola. Voi direte: ma cosa c'entra Circe con le nostre origini? C'entra, perché dal loro amore nasce un figlio, Telegono, che da grande va a incontrare Ulisse a Itaca, ma lo uccide per errore. Allora torna in Ea disperato con la vedova Penelope, la sposa, e ha un figlio da lei, Italo, che darà il nome all'Italia. Quindi siamo tutti in qualche modo nipoti di Circe e di Ulisse, ma quali erano le loro qualità? Tartassati dalla sorte, Ulisse ha dovuto subire enormi traversie prima di arrivare in patria, ma anche Circe, scacciata dall'Olimpo, è lasciata sola in un'isola piena di insidie. Entrambi forti, indipendenti, ingegnosi, Ulisse con le strategie belliche e Circe con i suoi filtri presi dalle erbe dell'isola. Queste qualità probabilmente restano negli italiani, tartassati ma forti, indipendenti, ingegnosi. Italo crescendo crea un regno a partire dal territorio dell'attuale Calabria, dove vivevano gli Enotri, popolazione simpatica e pacifica, espandendosi poi in Basilicata e lungo le coste tirreniche fino alla Liguria. Conquista via via le popolazioni, in parte con le armi, ma soprattutto con la persuasione, avendo un grande carisma. Gli abitanti del regno che volentieri si univano a lui non si chiamarono più Enotri, ma Italici, di qui Italia, dice Aristotele qualche secolo dopo. Italo, re degli Enotri, da lui in seguito preso il nome gli Itali e Italia, l'estrema propaggine delle coste europee, delimitata dai golfi di Squillace e di Santa Eufemia. Di lui dicono che abbia fatto degli Enotri, da nomadi che erano, degli agricoltori stabili, e che abbia imposto loro nuove leggi. E così anche Dionigi nel primo secolo a.C. Col volgere degli anni fu detto Italia, per un uomo potentissimo Italo nominato, uomo destro e filosofo, il quale convincendo molti popoli col dire e molti altri con la forza, ridusse in suo potere quanto v'è tra i due golfi, e quel tratto fu il primo che Italia si dicesse, però che mise il cuore sui confinanti e ne prese molte città. Anche qui si parla del cuore, della passione. Italo pone la capitale in Pandosia Abruzia, un centro della Sila, che domina un vasto paesaggio in cui l'occhio arriva fino al Mar Ionio attraverso la valle del Crati. Questo centro è l'attuale Acri, che vuol dire in alto, e già il greco Strambone definiva proprio lì questa Pandosia, una fortezza gagliarda sopra Cosenza. Molti scavi archeologici di Lenormand Capalbo e Maiuri, per esempio, confermano l'esistenza di Pandosia, che Aristotele diceva a 6 ore di distanza dal mare. Che bello se ancora oggi noi potessimo conquistare la stima delle nazioni e l'espansione economica attraverso l'amicizia più che l'aggressione, le leggi più che le armi. Immaginiamo come doveva essere bella questa città regale che sta sulle rive dell'Acheronte, oggi chiamato Fiumellese, Questo fiume parte dalla Sila, si getta poi nelle acque del Nete e di qui nel Mar Ionio, vicino a Crotone. E dalle rive di questo fiume parte la storia del Regno Italico e delle sue leggi avanzate. Sì, perché Italo fece molte leggi, tra cui una straordinaria, i sissizi, ta sussizia in greco, i banchetti comunitari. Era obbligo organizzare banchetti, delle cene in cui si mangiava tutti insieme, tutti uguali, mettendo in comune le sostanze per aumentare la condivisione, l'unità del gruppo. E dopo questi banchetti si prendeva la cittadinanza del regno. Era talmente utile questa legge, dava tanti di quei frutti che si espanse in tutto il Mediterraneo. La troviamo poi in Grecia, molto se ne parla nella scuola di Pitagora a Crotone. Ecco il cibo come veicolo di civiltà e di coesione. Speriamo di farlo ancora oggi. Dunque, la Calabria è il seme della nostra origine. Ricordiamo questa terra dolorosa, resiliente, accogliente, insieme conservatrice e sapiente. In qualche modo unisce la lentezza e la velocità. È lenta a superare certe tradizioni, come molti popoli poveri che trovano nella tradizione una grande ricchezza, ma veloce a cogliere la direzione degli eventi. I calabresi sono molto intuitivi nel capire se una persona è amica o nemica, se il corso delle cose va verso il bene o il male. È stato detto di questa regione: gli uomini che vi nascono sono di una razza generosa e forte. In essi il cuore resta fanciullo, le passioni sono violente e schiette come la natura, il destino segue il corso del sole e delle tempeste. Nella solitudine e nel silenzio si perde il confine tra realtà e leggenda. Ma non dimentichiamo anche la Puglia, l'Abruzzo. La Puglia è presto entrata nel Regno Italico e l'Abruzzo è stato importantissimo perché la prima volta che si parla di Italia come regione a sé stante è quando viene posta la capitale a Corfinium, in provincia dell'Aquila. Ha cambiato tanti nomi questa città e all'inizio del Novecento ha ripreso il nome Corfinio. Questa capitale è stata posta lì nel primo secolo a.C., resistendo ai romani che erano in forte espansione. E a testimonianza di questo, ecco la prima moneta coniata a Corfinio col nome Italia in lingua osca e adesso si trova nel Museo archeologico di Corfinio. Coltiviamo dunque quello che arriva in noi da tanto lontano. C'è dentro di noi un po' di Circe, fiera della sua indipendenza, un po' di Telegono, che ha fatto grandi errori e poi li ha riparati, un po' di Italo, re giusto e comunicativo, e in tutti un po' del sud Italia, caldo e saggio. Grazie di avermi ascoltato e se qualche playlist vi interessa, continuate a stare con me.